24 mattino. Alle 8 e quasi 20 minuti ci siamo anche noi, Deborah Rosciani è qui. Ah no, prima c'è la sigla, l'economia. Soldi e dintorni. Correre oggi. Stringiamo. Oggi andiamo a parlare di telefoni. Buongiorno a tutti. Il tema delle telefonie che ci sta sempre molto a cuore, perché siamo sempre in costante contestazione verso il comportamento degli operatori. Già qualche settimana fa avevamo raccontato di questa multa che era arrivata ai principali operatori appunto nel nostro paese, perché avevano deciso di modificare in maniera unilaterale i piani tariffari, comunicandolo in maniera non certo trasparente alla propria clientela. E oggi invece andiamo su un altro fatto che è stato molto ben raccontato ieri dalle Sole 24 Ore dal collega Daniele Lepido, che ha spiegato come Tele2 abbia citato in tribunale Wind e Fastweb per violazione della disciplina regolatoria e illecito anticoncorrenziale. Che cosa è successo? Che secondo Tele2 questi due operatori avrebbero bloccato il passaggio di almeno 47.000 clienti in poco meno di un anno. Si tratta di 35.000 utenti Wind e 12.000 Fastweb. In totale Tele2, proprio per questo blocco di questo passaggio, ha chiesto un forte risarcimento a questi due operatori, qualcosa come 145 milioni di euro complessivi. Si tratta tra l'altro di una storia che si ripete, perché già nel 2007 Fastweb aveva a sua volta contestato a Telecom Italia l'ostruzionismo da parte della compagnia al passaggio all'attiva di nuove linee. In teoria il passaggio da un operatore ad un altro di telefonia fissa dovrebbe funzionare senza problemi. È così Sergio Antocicco, presidente dell'ANUIT, l'Associazione Nazionale degli Utenti Italiani delle Telecomunicazioni? In pratica il codice delle comunicazioni prevede che si possa passare da un operatore all'altro di telefonia fissa o da un operatore all'altro di telefonia mobile, però sia chiaro, non è possibile passare mantenendo il numero di un telefonino a un telefono fisso o un numero di un telefono fisso passarlo su un telefonino, questo non è consentito. Andiamo al passaggio più semplice, proprio nell'ambito della telefonia fissa da un operatore ad un altro, come dovrebbe funzionare il passaggio? Dovrebbe funzionare in questo modo, che il nuovo che l'operatore che è stato scelto dall'utente fa firmare all'utente tutta una serie di documenti, tra i quali c'è la disdetta del precedente rapporto e la richiesta dell'applicazione della normativa che appunto prevede il trasferimento del numero. Dal punto di vista regolamentare ci sono parecchie cose da osservare. In particolare per gli operatori è stato definito a livello non solo italiano ma europeo un certo criterio che in Italia è stato indicato con la sigla SPM, significativo potere di mercato, cioè in pratica gli operatori più grandi, a cominciare ovviamente da Telecom Italia, poiché hanno un certo potere sul mercato, sono assoggettati a dei vincoli per quanto riguarda i tempi e i costi interni di questa operazione, che vengono applicati a loro ma non vengono applicati agli operatori più piccoli. Il passaggio attualmente da Telecom Italia verso un altro operatore sostanzialmente non crea grossissimi problemi, perché Telecom Italia applica a quanto pare in maniera abbastanza precisa questi vincoli che sono stati stabiliti dall'autorità. Quindi più problematico invece il passaggio tra i nuovi operatori che si sono affacciati più di recente sul mercato. Da un operatore più piccolo a un altro operatore della stessa categoria, quindi non con la caratteristica, senza la caratteristica del significativo potere di mercato, e allora da questo punto di vista la situazione regolamentare è un pochino più confusa. E quindi, poiché ovviamente ogni operatore è ben contento di mantenersi un cliente, di ostacolare in ogni modo il passaggio, in certi casi se esistono delle norme che non sono sufficientemente chiare e sufficientemente dure, è chiaro che l'operatore cerca di utilizzare. Ecco, infatti noi diciamo che alla luce del fatto che c'era stata una denuncia esplicita da parte di un operatore verso altri soggetti che operano sul mercato, avevamo capito che l'ostruzionismo che veniva fatto era intenzionale. In realtà poggia proprio su una questione regolamentare non chiara, allora. Sì, ci sono parecchie cose che non sono chiare oggettivamente, e questo va tenuto presente. Ecco, tra l'altro no, volevo diciamo anche segnalare, dottor Antocicco, mi scusi solamente perché abbiamo sentito anche gli operatori interessati alla questione. Wind, per esempio, ha detto: a noi non risultano queste cifre, cioè per esempio il fatto che sarebbero circa 35.000 utenti che non avrebbero potuto passare da Wind a Tele2. Abbiamo già provveduto a chiarire la nostra posizione, ha ricordato anche come la stessa Tele2 che è Vodafone già lo scorso febbraio è stata sanzionata dalla Gcom per la stessa questione, per aver ostacolato appunto il trasferimento di diversi operatori e diversi clienti appunto verso altri operatori mobili. Prego Antocicco, mi scusi. Sì, no, dicevo che nel 2007 è stato fatto comunque un passo avanti importante, perché prima se si passava da Telecom Italia a un altro operatore non c'erano problemi. Se si voleva passare da un altro operatore a un operatore diverso, allora a questo punto era previsto che si dovesse richiedere di nuovo la linea a Telecom Italia e poi fare il successivo salto, e questo comportava dei costi molto elevati. L'autority per le garanzie delle comunicazioni nel 2007 decise invece con una delibera di eliminare questo passaggio, e questo ha oggettivamente reso più semplice e anche più conveniente poter cambiare operatore. Ci manca un minuto, dottor Antocicco, si tenta di andare dunque verso la strada della semplicità, ci può capitare però che anche se il passaggio da un operatore ad un altro si concluda con successo, dal vecchio operatore continuino ad arrivare le vecchie bollette, come ce la sbrighiamo? Allora, se le bollette arrivano sotto forma di conto corrente postale da pagare, bollettino di conto corrente postale da pagare, se uno ritiene di non doverle pagare, è sicuro che non le deve pagare, semplicemente non le paga. Se invece ha dato incarico della domiciliazione su carta di credito o su banca, dovrà chiedere il blocco di questa domiciliazione, tenendo conto che comunque tra quando si chiede e quando diventa effettivamente operativa passa qualche settimana per motivi proprio tecnici. In ogni caso, se neanche questo dovesse andare bene, la legge prevede che si debba fare un primo ricorso ai Corecom, che sono i comitati regionali, sì, di regionali, per dirimere le controversie tra gli utenti e gli operatori. Grazie molte per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. A presto. Altrettanto. Alessandro. E allora, alle 12, alle 12 ritorniamo su Alitalia, c'è in vista un'assemblea degli obbligazionisti per fine aprile, quindi cerchiamo un po' di capire i risparmiatori che hanno ancora titoli in mano a che punto sono. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Giovanni Strangio e Francesco Romeo, due dei latitanti più ricercati in Italia, sono stati arrestati ieri sera ad Amsterdam. Strangio è accusato di essere l'autore materiale della strage di Duisburg il 15 agosto 2007, in cui furono assassinate 6 persone in una probabile faida dell''Ndrangheta. E ci sarebbe una richiesta di riscatto per i 3 operatori di Medici Senza Frontiere rapiti 2 giorni fa in Darfur, nel Sudan. Tra loro il medico italiano Mauro Dascanio. Il governatore della regione ha detto di avere parlato con rapitori ostaggi e che sono in corso negoziati. La politica in Italia, botta e risposta a Berlusconi Franceschini. Il presidente del Consiglio definisce il leader del PD catto comunista e bolla come una tassa sui ricchi, la sua proposta sulla tassa sui ricchi come un'elemosina. Replica Franceschini, tecnicamente lui è un clerico fascista. José Mourinho nei guai, non tanto per l'eliminazione della Champions League, ma per l'accusa di aggressione ai danni di un tifoso del Manchester. Secondo il Guardian, il tecnico dell'Inter avrebbe colpito con un pugno un tifoso nelle vicinanze del pullman dei nerazzurri dopo la partita di mercoledì all'Old Trafford. Versione smentita immediatamente dall'Inter. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato oggi ai paradisi fiscali. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Forse sta finendo la lunga stagione dei paradisi fiscali, se ne parlerà al prossimo G20 di Londra. Sia il presidente francese Sarkozy sia la cancelliera tedesca Merkel sono determinati a discutere sanzioni severe. Il Liechtenstein, che gestisce 165 miliardi di dollari di capitali stranieri, ha annunciato che recepirà gli standard internazionali di trasparenza delle proprie attività bancarie. Bisogna capire se collaborerà anche nel combattere l'evasione fiscale, non solo la frode. ma gli sguardi sono tutti concentrati sulla Svizzera, che si calcola gestisca circa un terzo dei capitali offshore, come riferisce oggi sul Sole 24 Ore Lino Terlizzi. Finora ha difeso bene il segreto bancario, in cambio per esempio di una euro ritenuta, ma dopo lo scandalo UBS, la banca elvetica accusata dagli Stati Uniti di aver favorito l'evasione e la frode di molti cittadini americani, le cose possono cambiare. La Svizzera deve difendere le proprie banche, i cui attivi valgono più volte il reddito nazionale, ma un passo indietro sul segreto bancario sarà forse costretta a farlo. Americani ed europei non possono chiudere nemmeno un occhio, anche perché finora ne hanno chiusi due. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore. Ci ritroviamo ovviamente lunedì mattina alla solita ora e 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Oggi Gad Lerner su Repubblica, chiediamocelo, si parla dello stupro al parco della Caffarella, sarebbero ancora in carcere quei due rumeni se si fosse trattati di due romani anziché di due rumeni? D'accordo, la loro fedina penale è tutt'altro che immacolata, mettiamoci pure che hanno una brutta faccia, ma non posso fare a meno di pensare come avrebbe figurato la mia di faccia esibita in TV con l'accusa di avere violentato una 14enne. Passo alla Stampa, Fulvio Milone, oggi due stupri e due misure, questo è il titolo. Inizia così l'articolo. Uno specializzando del Policlinico di Messina ieri ha compiuto una violenza sessuale su un 15enne che ha accompagnato la madre in ospedale. La procura gli ha concesso gli arresti domiciliari e non ha reso note le sue generalità, visto che l'indagato potrebbe poi risultare innocente. Due rumeni sono finiti in carcere a Roma il 18 marzo per lo stupro di una 14enne nel parco della Caffarella. I nomi con le foto, dati in una conferenza stampa, sono finiti su tutti i giornali. I siti web e i TG hanno trasmesso l'interrogazione video registrato di uno di loro. Io saluto Sorin Cehan, spero di averlo pronunciato bene. Buongiorno direttore. Buongiorno. Direttore di che settimanale? Lo dica lei così evito un'altra pronuncia infelice. Gazzetta Romanesca. Perfetto. Gazzetta Romena. È il settimanale dei rumeni in Italia, possiamo dire così, diffuso in Italia nella comunità rumena, perché in lingua ovviamente. Lei ha fatto una, possiamo dire, provocazione nell'ultimo numero. In prima pagina che cosa ha pubblicato? In prima pagina abbiamo scelto i titoli con italiani che hanno commesso violenze contro i rumeni. Per esempio, che notizie c'erano? Che avete per esempio, la notizia principale, l'apertura, parla dell'italiano che ha violentato un bambino di 8 anni a Napoli, a Cicciano. Poi? Poi un'altra notizia parla di un rumeno ucciso da un autista italiano ubriaco e drogato. Poi un'altra notizia parla di una ladra italiana presa, catturata da due rumeni. C'è una ladra italiana fermata da due rumeni. Sì. E questo perché lei ha detto così, vi facciamo vedere l'effetto che fa sentire additare addirittura un popolo come un popolo criminale. Questo è il senso della provocazione? No, ho voluto far sentire ai nostri lettori cosa si prova a leggere una serie di notizie tutte dello stesso tipo. Ovviamente ti viene la rabbia quando leggi una, due, tre, quattro notizie dello stesso tipo. E ho voluto fargli capire cosa provano gli italiani leggendo sui giornali, nelle prime pagine, notizie sui rumeni che ammazzano, che stuprano tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Che ne pensa della vicenda della Caffarella? Lei lo sa che il nostro Ministero degli Interni, con dati statistici alla mano, ha detto e ha reso noto, insomma, che purtroppo il numero di reati contestati a cittadini rumeni, non in questo caso ma in generale, è superiore rispetto a, per esempio, a cittadini di altre nazionalità. Questo è un dato di fatto statistico. Questo non si può negare. D'altra parte, tantissime violenze, come lei lo sa, non vengono denunciate. Questo è un altro dato. In Italia i rumeni fanno anche altre cose. Purtroppo portarli in prima pagina solo per le violenze è sbagliato. Tutto qui. Io saluto Michele Brambilla, vice direttore del giornale. Buongiorno Brambilla. Buongiorno. Ha fatto bene o ha fatto male? È una provocazione giusta o sbagliata quella del direttore della Gazzetta Romanesca? No, ha fatto bene perché ha avviato un dibattito che va fatto. Io credo che si debba essere equilibrati, e cioè riconoscere che c'è in Italia, da una parte secondo me non maggioritaria ma comunque consistente, c'è un certo pregiudizio nei confronti degli immigrati. E dall'altra è vero, come ha ricordato anche lei, che c'è un aumento dei reati da parte di, ad esempio, di alcuni rumeni, e quindi capita che i giornali puntino l'attenzione in particolare su questo, e c'è la possibilità di a volte essere squilibrati. Però io vorrei ricordare un dato di fatto che non deve essere dimenticato, e cioè che l'80%, per non dire il 90% dei titoli su questa vicenda dei due romeni arrestati per stufa da Caffarella sono stati fatti per dire che il test del DNA li scagiona, sono stati fatti per dire che c'è un giallo, sono stati fatti per dire che probabilmente è stato fatto un grave errore giudiziario. Su tutti i giornali sono apparse analisi come quelle che avete appena ricordato. Nessuno però, in pochi si sono chiesti al momento in cui sono stati esibiti in conferenza stampa con le facce, cosa che, oppure con gli arresti, con le manette, cosa che sarebbe vietata peraltro dopo il famoso episodio, insomma, anche di Tangentopoli, la legge che c'è in Italia. Lei tra l'altro scrisse proprio sul giornale, forse in tempi, diciamo, quando si adombrava l'idea di un errore, forse sarà un errore, forse effettivamente non solo loro, ma non c'era in tutto questo. Ma io credo di sì, perché penso che onestamente nessuno possa ritenere che i giornali italiani siano razzisti, pensiamo quali sono le grandi testate, insomma, non mi pare proprio. E poi lei dice giustamente, quando sono stati arrestati non c'è stato timore nell'esibirli in prima pagina. È vero, però non dimentichiamo che la Questura, la Procura della Repubblica, cioè due fonti ritenute più che attendibili, hanno detto che la vittima aveva riconosciuto uno degli aggressori e che uno degli aggressori aveva confessato. Quindi, insomma, i giornali facilmente vengono tratti in inganno da una notizia del genere. Non è un caso così dubbio. E io vorrei ricordare che da un anno e mezzo noi stiamo frugando nelle pieghe più nascoste della vita privata, ad esempio, di Alberto Stasi, sapendo quanti film porno vede e che cosa faceva con la fidanzata. Quest'uomo non è mai stato neanche arrestato, è semplice indagato ed è un italiano, quindi c'è un modo spesso di fare giornalismo su cui dobbiamo riflettere, ma che riguarda tutti. Più in generale. L'ingegner Zornita è stato crocifisso per 5 anni. Sì, il presunto una bomber, poi una prova contraffatta in mala fede da un perito che adesso è sotto inchiesta. Eppure non, adesso siamo qua a fare una trasmissione proprio per riflettere su questi temi. Certo, no, ieri leggevo su Libero dire 5 persone innocenti, poche, vengono arrestate e poi si rivelano innocenti. E vorrei tornare per un attimo a Bucarest. Sorin Cehan, direttore della Gazzetta Romaniasca, che reazione c'è stata nei lettori del suo settimanale? Alcuni hanno capito male, l'hanno capito come una vendetta, come un razzismo al contrario. Ma razzismo al contrario, perché secondo lei c'è stato un atteggiamento razzista generalmente della stampa italiana? In alcuni pezzi non si può dire un giornale razzista, però un giornale a volte pubblica un pezzo che si può, insomma, definire tutto sommato razzista, con frasi, con affermazioni razziste. Insomma, dice che molti hanno equivocato pensando a una vendetta, cosa che lei dice non era così, ma è per far vedere l'effetto che fa. L'effetto, diciamo che ecco cosa provano quando bevono, tra le virgolette, come si sentono gli italiani quando bevono notizie di prima pagina di questo tipo. Se si capisce. Poi un rumeno, se incontra un italiano infiammato, aggressivo per questo tipo di informazioni, lo capisce e poi si vede cosa si fa. Cioè, insomma, alcuni dicevano noi andiamo via, ho visto in televisione tanti italiani razzisti, non devono andare via per questo, secondo me. Brambilla, insomma, come finirà questa vicenda non lo sapremo. C'è chi dice, come per esempio Achille Serra del Partito Democratico, che ha una lunga vita in polizia, dire stiamo attenti anche a dire non c'entrano nulla, lui che insomma di informazioni ne ha, però effettivamente l'atteggiamento è stato un atteggiamento forse sbagliato. Qualcuno dice addirittura dobbiamo chiedere tante scuse a questi due rumeni, addirittura spingersi a tanto? Beh, se sono innocenti altro che tante scuse, abbiamo loro un risarcimento. Certo, la storia è poco chiara. Io ripeto, la polizia e la procura ci hanno dato la notizia di una confessione che sembrava spazzar via ogni dubbio. Poi si è detto che la polizia avrebbe storto questa confessione con un pestaggio, e però anche qua, scusate, io vorrei ricordare che il presunto pestaggio sarebbe stato compiuto da poliziotti romeni, non da polizia italiana. Questo è quanto si dice, quanto dice lo stesso rumeno, scusate, non ricordo il nome, che poi ha ritrattato la confessione. Ora, è una storia strana. Io penso che, ripeto, bisogna essere equilibrati, che ci sia una istintiva reazione di diffidenza nei confronti dell'immigrato, non solo romeno, è vero da parte di molti di noi, da molti di noi italiani. Però obiettivamente la stampa italiana non esce male da questa vicenda, perché ha in prima preso per buona una notizia che pareva assolutamente affidabile, e poi ha imbastito una campagna per dimostrare che affidabile non era. Sì. Ha denunciato un caso di errore giudiziario nei confronti di due cittadini romeni. Dice, scusate, delle tutele, lei dice, cioè si è fatto il passo indietro. Io qui vi devo fermare perché insomma devo dare le informazioni sul traffico, ma vi ringrazio, le vostre posizioni sono state molto chiare, poi vedremo gli sviluppi. Oggi è attesa anche un'altra giornata, potrebbe essere il giorno in cui uno dei due rumeni, il cosiddetto Loios, il biondino, potrebbe essere totalmente libero. Devo andare alle informazioni sul traffico, grazie al direttore della Gazzetta Romaneasca e al vice direttore del giornale Michele Brambilla. Allora, sapete che c'è il nuovo sistema con le impronte, anzi con le minuzie, per contrastare i pianisti, ma ieri pare sia successo alla Camera il fattaccio, sono già rispuntati i pianisti, due almeno così narrano le cronache, ieri l'ANSA. Intanto voglio salutare l'onorevole Guido Dussin della Lega, buongiorno. Buongiorno onorevole. L'ANSA ieri scrive: Dussin a un certo punto ha coperto il meccanismo di voto di Salvini, collega della Lega, che non era in aula, con una copia furtiva della Gazzetta dello Sport, ha messo sotto la mano e lei ha votato anche per Matteo Salvini. È così? No, nella prima parte no, perché Matteo era lì in aula, poi un paio di voti li ho fatti perché era lì a fianco e ho sbagliato. Mea culpa, e devo chiedere scusa a Matteo di quello che ho fatto, perché poi è creato solo un casino, dalla prossima settimana non si ripeterà più, e quindi chiedo scusa a tutti quanti e vi ringrazio per questa opportunità che mi date di redimermi già in diretta. E Dussin, lei posso, guardi, lei le faccio un applauso, lei è il primo pianista reo confesso. Ah sì, perché è una cosa, diciamo, è un errore, lo considero un peccato veniale, ma comunque è un peccato, e quindi è giusto che voi mi abbiate messo in viva voce col pubblico e faccio una dichiarazione di mea culpa. Mea culpa, perché attenzione, Fini ha detto che si stimerà e ci saranno le sanzioni. Lei che dobbiamo fare? Possiamo fare i delatori e mandare questa registrazione al Presidente della Camera? Non c'è problema, non sì, c'è problema. Rispondo. Al fine del voto nessuna deviazione è successa, perché il voto era chiaro. Stessa cosa per quanto riguarda i voti di Salvini li aveva già fatti in mattinata. Però dice perché Salvini era lì, era a 10 metri, insomma gli ha fatto un favore. Ma è una leggerezza da parte mia, molto probabilmente ho errato. Allora, ma la ringrazio Dussin, stia con noi. Io voglio salutare l'onorevole Elio Belcastro del Movimento per le Autonomie, buongiorno. Onorevole. Buongiorno. Allora, perché ciao, vi parlate tra pianisti. No, attenzione. No, lei non è il pianista, lei è il pianato, come si suol dire. Io sarei il pianato. Sarei, nel senso che l'onorevole Carmelo Lomonte del Movimento per le Autonomie, in questo caso si racconta in maniera più disinvolta, ha votato per il suo collega Belcastro, cioè lei, è vero? Sì, credo che, allora, io sono come tutti. Faccia il reo confesso anche lei. Anche i parlamentari fanno la BP. Ecco, io sono andato a fare la BP durante una delle votazioni. Ora, essere definiti pianisti, no, per questa cosa qua a me sembra davvero un'assurdità. No, perché si fa il pianista? Si fa o per fregarsi la diaria, e in questo caso un voto non avrebbe comportato alcun cambiamento sulla diaria, oppure per far modificare quelle che sono le volontà del Parlamento. E anche in questo caso non mi pare che ci possano le condizioni. Era fare pipì. Però, onorevole, anche in Parlamento si fa la pipì. Io ricordo di essere mancato a Fienno 50 secondi dall'aula, perché l'ho fatto pure in fretta questa cosa. Se in questo frangente c'è stato un voto che io non ho potuto fare, l'ho fatto. Sì, l'ha fatto. Il problema qual è? Ho avuto questo mandato da parte mia, ma mi dispiace per quello che ha fatto. Onorevole Belcastro, il problema qual è? Che sia l'onorevole Salvini, per il quale Dussin ha votato un paio di volte facendo mia colpa, sia lei, e non avete dato le impronte. Siete dei 21. E io non le darò mai le mie impronte. E mannaggia, come mai? Guardi, è un problema davvero. Cioè, allora, io ne ho viste di tutti i colori in Parlamento, anche sotto questo profilo. Io sono stato uno di quelli che pure, anzi, essendo presente sempre e votando sempre per mio conto e non per altri, ho richiamato spessissimo anche i colleghi del PDL, che quando si trattava, questo è lo scandalo vero, quando si trattava di votare provvedimenti che danneggiavano il Sud, facevano i pianisti, cioè, e c'era gente meridionale che lo faceva. Allora, questo è lo scandalo vero, che io avrei voluto il giornalista attento che ha segnalato sta cosa, cioè, se ne fosse accorto. Certo, ma che era pronto lì a controllare tutti quelli che non hanno dato le impronte, che possono votare col vecchio sistema, se il vicino di banco... voi ve la siete un po' cercata, perché non dando le impronte siete sull'occhio, sotto la lente, insomma, no? Ma a me va benissimo, è proprio per questo motivo io non ho dato le impronte, perché non ho nulla da nascondere. Questa è la cosa bella di un parlamentare, che poi il collega, pensando di far cosa gradita, vedendo che io fossi là, ha premuto il bottoncino al posto mio. Dico, io non so se moralmente è una cosa deprecabile, assolutamente non lo credo. Lo difende, insomma, d'altronde era via un minuto. Però lei le impronte non le dà, una questione di principio. Ha detto anche Fini ieri sera, porta a porta, ha detto pianista è chi lo fa abitualmente, è chi vuol cambiare la volontà del Parlamento, e questo è accaduto purtroppo, ahimè, in passato, no? Dico, ma non riguarda sicuramente né il Movimento per l'Autonomia, né tantomeno l'onorevole Carmelo Lomonte o Elio Peccato. Dice, una pipì non è mai essere pianisti. Ma infatti, anche lei la farà, immagino, no? Dico, anche gli angeli la fanno. In ogni caso, voglio dire, lei comunque le impronte non le darà per una questione di principio, insomma. Per una questione di principio, Io non sono un pollo d'allevamento. Va bene. Lei, onorevole Dussin, lei è un pollo d'allevamento, lei le impronte le ha date invece, no? Ma guardi, la... Le ha messe, sì, le impronte, lei sì. No, tutti quanti non le abbiamo. Neanche lei? No, perché sennò non ci sarebbe successo il caso. Nel senso... Salvini non le ha date, ma neanche lei? Ma sì, ma le daremo la prossima settimana, nel senso che... C'è tempo. Speriamo anche che cambi il regolamento e quindi si migliori la creatività. Comunque le daremo, giusto per non essere sottoposti a farci attenzione, quindi preferiamo evitare tutto quanto. Senta, ma quando Fini dice che ci saranno possibili sanzioni, che vuol dire? Che rischiate? Sì, può essere che ci siano le sanzioni, ognuno risponde, quindi se uno ha fatto una cosa non congrua col regolamento ne risponderà. Speriamo altresì che cambia anche il regolamento della Camera, però questo non vuol dire nulla, nel senso, questo l'abbiamo già richiesto in aula. Poi le responsabilità di ognuno se le assume, io mi sono assunto la mia e chiedo scusa. No, ma visto che è stato così simpatico, anche a fare mia colpa, ma è vero, cioè, ha messo la Gazzetta dello Sport, cioè ha infilato la mano sotto la Gazzetta per... Vabbè, ma io la Gazzetta ce l'ho sempre ogni giorno, adesso che la Gazzetta sia sopra il tavolo, sia in fianco, adesso questo è indifferente. E che era arrabbiato che squadra poi tiene? Poi ho fatto le battute perché c'era un articolo l'altro, vabbè. Che squadra tiene lei? Perché io tengo il Milan, purtroppo. purtroppo. Siamo colleghi, purtroppo. Vabbè, ha messo sotto la ha utilizzato la gazzetta per cercare di. No, ma la gazzetta è sul tavolo, quindi sì, è sempre lì. Vabbè. Gazzetta, Corriere, Repubblica. Sono sempre. Va bene, io vi ringrazio, onorevole Guido Dussin della Lega e l'onorevole Elio Belcastro del Movimento per le Autonomie. Siete stati simpatici. Insomma, poi gente giudica, gli ascoltatori giudica. Avete insomma detto che chi ha fatto il pianista, chi è stato pianato, come si suol dire. E comunque, eccoci qua. Oh, è costato 450.000 euro il nuovo sistema delle impronte. Datele tutti, se posso dare il mio consiglio, così togliamo ogni dubbio. Ci fermiamo qui anche per oggi. Grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara parla della crisi, come gli italiani affrontano, reagiscono alla crisi. E noi ci sentiamo lunedì mattina.